Yeah. Io c'ero, ci sono e ci sarò. Continuerò quando l'hip hop passerà di moda tipo jukebox. Dimmelo un po' tu che ti senti un boss, ma ci boss in tutti i posti, voi tutti loschi, giro coi più tosti, finisce a fette come un toast. Non voglio mica fare brutto, però qualche problema c'è. Voglio solo svelare il trucco di certa gente che fa rap. Fumo bombe, lancio bombe napalm, altro pianeta, Vegeta e Napa. Sbuffo nel Zlatan, sul beat immortale come Misfits Nathan. Nathan! Wow, dici cazzate come cullo, ma porco dao, sei strafatto, sembri Mister Ciao. Ti mando a fanculo, fanculo. Ho messo del Rufus nel vostro bicchiere, iniziate a bere, così che le cose vere non le ricordate più. Non le ricordate più, non le ricordate più. Cos'è che dici tu? Non sei più bravo con qualche views? Ti credi Snoop Dogg? Eh no, sei solo un dog, ma senza Snoop. Alterno la mia serietà alla superficialità. Dipende come mi gira, fra tu gira la continua. Qua passa le sbrane in chimica. Ho una lirica cinica, ancora cambierà. Ma dipende come mi gira. Dipende se qualche fatto mi ispira. Dipende dall'emozione sentita. Quello che scrivo ora chiude la mia vita. Basta sei mollo, rompiti il collo, basta rhymes, io non m'accollo, sei te che sei un pollo, non la passi mai, mai. Sono mad come child, all'attivo troppi live, un buono che sa essere cattivo, il fare schivo, sopravvivo, Rick Grimes. Ne ho viste di tutti i colori, mai abbastanza, stendono piste, vanno fuori, debitori, scatta la latitanza. La mia carogna avanza, sono senza speranza, senza vergogna, pieni di debiti, trovano i soldi per andare in vacanza. Sti rapper sono putane, sta scena è la red light. Fanno i gangster ma sembrano Milhouse. Scene quotidiane, ne faccio una, poi bye bye. Ho un sogno, lavorare al greenhouse. In quante cazzate ti perdi fra Aleman, Special One, come Mourinho al Chelsea, come Robin tutti van persi. Lo giuro, prevedo in futuro di piantarvi nel culo il bastone dei selfie. Alterno la mia serietà alla superficialità. Dipende come mi gira, fra tu gira la continua. Qua passa le sbrane in chimica. Ho una lirica cinica, ancora cambierà. Dipende come mi gira. Dipende se qualche fatto mi ispira. Dipende dall'emozione sentita. Quello che scrivo ora chiude la mia vita.